diretta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più il web attraverso il quale potete ascoltarci scaricando l'apposita app gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. E come dicevo oramai da diverso tempo, ci stiamo ampliando con il DAB, ci potrete ascoltare tramite questo non nuovo mezzo, nuovo per noi, che vi permette di ascoltarci in qualsiasi parte si possa avere, anche senza, al di là diciamo della modulazione in frequenza. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 in poi si preoccupa di farvi ascoltare brani registrati dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità che oggi è molto interessante perché è ad opera di un grande personaggio che ci ha lasciato purtroppo nel gennaio del 2016, lasciando veramente un grande vuoto nella musica di tutti i generi, perché lui praticamente ha toccato tutti i generi. Si chiamava David Bowie. Dopo la sua morte sono usciti diversi album live, questo è l'ultimo in ordine di tempo, è uscito in occasione del Record Store Day dell'aprile scorso e qui voglio aprire una parentesi sul Record Store Day che diciamo sta un po' travalicando quelle che erano le intenzioni originali, sì, oramai è un po' che le ha travalicate, direi il vero. Il fatto è che molte cose interessanti sono fatte veramente in tiratura limitatissima, è abbastanza difficile trovarle, anche perché i gestori dei negozi di dischi giustamente, oserei dire, anche se non dovrei, mettono avanti i loro clienti affezionati e poi costano troppo, nel senso che 52-53 euro per un doppio vinile mi sembra veramente una cifra notevole, forse anche esageratissima secondo me. Comunque, chiusa parentesi, per quel che riguarda il Record Store Day ci sono state parecchie uscite molto molto interessanti, ma come dicevo 53-54 euro per un doppio vinile mi sembra veramente veramente incredibile. Qui abbiamo uno dei pochi CD che sono usciti in quell'occasione, il nuovo album appunto di David Bowie che si chiama Ready Set Go. È un singolo, un disco singolo, e racchiude il concerto che David Bowie fece l'8 settembre del 2003 per Worldwide, cioè fu trasmesso una trasmissione anche televisiva che fu trasmessa in tutto il mondo per la presentazione del suo nuovo album che si chiama Reality, si chiama tuttora Reality, e doveva uscire. Sarebbe uscito di lì a poco e lui in questo concerto, immortalato ripeto in questo album che si chiama Ready Set Go, presentava per la prima volta questi brani. Il tutto è stato registrato a Riverside Studios di Londra, che sono esattamente sul Tamigi, a Hammersmith, e appunto l'8 settembre del 2003. Ce l'andiamo ad ascoltare e lascio dallo stesso David Bowie l'introduzione di questo brano. This is the last track of this album. We should have the next album finished in about 5 weeks, so not too long to come. All right. So we tour this one first. Promised me the ending would be clear. You'd let me know when the time was now. Don't let me know when you're opening the door. Close me in the dark, let me disappear. Memories that flutter like bats out of hell. Stop you from the city smiles. Life wasn't worth the balance or the crumpled paper was written on. Don't let me know we're invisible. Don't let me know we're invisible. Hot cash days that you trailed around. Cold, cold nights under chrome and glass. Led me to a river of perfumed lips. Sent me to the streets with the good time girls. Don't let me know I'm invisible. We can dance, dance, dance in the fire. Dance, dance, dance in the fire. Feed me no lies. I don't know about you. I don't know about you. I don't know about you, I don't know about you. Dead or alive, bring me the disco king. Bring me the disco king. Bring me the disco king. Bring me the disco king. Killing time in the 70s, but smelling of love in the moist wind. Don't let me know when you're opening the door. Stab me in the dark, let me disappear. Soon there'll be nothing left of me. Nothing left to relieve. don't know about you, I don't know about you. Bring me the disco king, I don't know about you, I don't know about you. Dead or alive, bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Bring me the disco king, bring me the disco king. Si chiama Bring Me the Disco King, il brano che ci siamo ascoltati da David Bowie in sede di presentazione dell'album Reality, che sarebbe uscito di lì a poco. Presentazione che avvenne a River Studios di Londra l'8 settembre del 2003 e che è stato immortalato in questo nuovo album uscito in occasione del Record Store Day dell'aprile scorso, che si chiama Ready, Set, Go e che è la novità che vi propongo quest'oggi. A questo punto, siccome la mia fantasia è sufficientemente limitata, ci andremo ad ascoltare in questa prima parte della trasmissione alcuni brani di David Bowie suonati, interpretati da altri musicisti, da altre bands. E ce ne sono tanti. David Bowie ha scritto un sacco veramente di bei pezzi. Quasi tutte le cose che ci ascolteremo, se non tutte, appartengono però alla prima parte della carriera del Duca Bianco, uno dei suoi tanti soprannomi. E andiamo ad iniziare da una band completamente sconosciuta, credo, dalle nostre parti. È una band che non esiste più, si chiamavano Harvey Danger. Loro si formarono all'Università di Washington a Seattle e sono stati attivi dal 1992 al 2001, poi sono riformati nel 2004 e hanno abbandonato definitivamente, ma come al solito non si sa mai, hanno abbandonato definitivamente fra virgolette nel 2009. È una band molto conosciuta attraverso il circuito delle college radio americane. Ogni college, ogni università, ogni scuola oserei dire ha la propria radio privata. Sta succedendo per fortuna anche qua in Italia, che molte radio hanno la propria web radio, che molte scuole, scusate, abbiano la propria web radio. Non hanno fatto nessun album dal vivo, ma 3 album in studio e alcuni singoli con canzoni dal vivo, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso. La canzone di punta si chiama Little Round Mirrors e sono 4, 5 pezzi, 2 in studio e 3 registrati dal vivo. all'Avast 2 Studio di Seattle, quindi praticamente in casa degli stessi Hervey Danger. Non è dato sapere la data esatta di questa registrazione. Il brano che ci propongono è un brano che arriva da Hunky Dory, un classico di David Bowie del 1971, si chiama Oh Pretty Things, loro invece si chiamavano Hervey Danger. Shake off your bed, pulled another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window and what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down for me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about the days to come where the books were found by the golden one, written in vain, written in awe by a troubled man. Question what we're here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. And golden ray. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of a common race. The earth is a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. ground control to me. Questo sciamanato alla chitarra si chiama Billy Corgan, è il leader, cantante, frontman degli Smashing Pumpkins, che hanno registrato questa versione di Space Oddity, che certamente avete riconosciuto, almeno spero, che è inserita in un album che si chiama Oceania Live in New York City. C'è tutto l'album, appunto, Oceania, e poi dopo ci sono altre cose registrate sempre dal vivo durante lo stesso concerto, che si è svolto al Barclays Center di Brooklyn, in quel di New York City, naturalmente, il 10 dicembre del 2012. Smashing Pumpkins è una band che ha avuto un grande successo con un album del 1993 che si chiama Siamese Dream, e sono attivi praticamente dal 1988, anche se hanno avuto qualche interruzione, e hanno fatto diversi album dal vivo. Fra l'altro ce n'è uno che è solo su una cosa molto particolare, è solo su cassetta, si chiama Siamese Dream Live, ed è solo su cassetta in un box set con due candele. Non chiedetemi perché, non ve lo so assolutamente dire, una cosa molto particolare, già il fatto della cassetta, che però pare ultimamente stiano tornando un po' di moda, sempre nell'ambito di una cerchia ristrettissima di utenti. E poi le due candele assolutamente non riesco a capire, non riesco a spiegarvi il perché. Comunque, questa Space Oddity, che è, come dicevo, è uno dei brani più famosi in assoluto di David Bowie, arriva dall'album omonimo, un album del 1969, uno dei primissimi, anzi forse il primo, di David Bowie, e gli Smashing Pumpkins fanno questa versione che è molto molto accattivante, anche se nel finale Billy Corgan si fa prendere un po' la mano, e quindi c'è un po' di cacofonia, diciamo così, ma sicuramente una cosa molto molto molto interessante. Smashing Pumpkins, dicevo, il tutto registrato a Brooklyn nel dicembre del 2012, Space Oddity. Thank you. Vi ho proposto questo album lo scorso anno come novità in una trasmissione. È un brano, è un album di piano solo da parte di un pianista che arriva da Jacksonville, Florida, che si chiama Brad Mehldau, grande pianista, un pianista jazz che però ha connessioni, spesso e volentieri suona e fa pezzi diciamo di musica rock tipo questo che ci siamo ascoltati. Questo album, a dire il vero, si chiama Your Mother Should Know, è tutto dedicato ai Beatles, a parte l'ultimo brano che è appunto questo di David Bowie che si chiama Life on Mars, anche questo famosissimo. Il tutto è stato registrato alla Philharmonie de Paris il 19 e 20 settembre del 2020. Life on Mars, con tanto di punto interrogativo, viene da un album del dicembre del 1971 che si chiama Hunky Dory, un altro grande classico di David Bowie, dal quale ci siamo già ascoltati in precedenza il brano Oh Pretty Things. Un altro brano famosissimo che vi ho già fatto ascoltare la scorsa settimana nella versione dei King Crimson, perché Robert Fripp ha prestato la sua chitarra a questo brano durante registrazioni effettuate a Berlino, e anche qui c'è Robert Fripp come ospite di una band che si chiama Blondie. Certamente la conoscerete, è famosissima, è attiva dal 1974, si è sciolta temporaneamente nel 1992 ed è tornata in attività nel 1997 fino ad oggi. È una delle band di punta del new wave newyorkese e ha avuto un grandissimo successo di pubblico, di vendite, anche grazie alla colonna sonora di un film del quale non mi ricordo più il nome naturalmente, che è American Gigolo, credo che si chiami, e hanno fatto 4 album dal vivo più alcuni singoli con canzoni registrate dal vivo, e questo è uno di quelli. È un 12 pollici in vinile del 1980, un brano in studio che si chiama Atomic. Sul retro invece abbiamo questa Heroes, registrata al Hammersmith Odeon di Londra il 12 gennaio del 1980 insieme a sua maestà Robert Fripp.

go too far. But boy, could he play guitar, making love with his ego, singing sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Una delle poche voci in grado di competere con quelle di David Bowie era quella di Peter Murphy dei Bauhaus, grandissima band proveniente da Northampton in Gran Bretagna e attiva dal 1978 fino ad oggi, anche se ci sono state delle interruzioni anche abbastanza lunghe, perché poi ci sono state dissidi, ci sono state tentativi di carriere soliste e tante altre cose. Loro hanno fatto un pezzo che li porrà per sempre nell'Olimpo della musica rock, che è questo che sta partendo adesso. Dicevo, nell'Olimpo delle musiche rock, il brano si chiama Bela Lugosi's Dead, cercatelo perché è assolutamente fantastico. Hanno fatto un sacco di cose dal vivo, anche perché molti di questi sono stati pubblicati da una casa discografica, fra virgolette, che si chiama instantlive.com, che registrava i concerti e vendeva la registrazione subito dopo la fine del concerto nello stesso locale. Naturalmente rimanevano delle copie che venivano poi vendute online. Questa è una di quelle che questa casa discografica, diceva, una di quelle che purtroppo mi sembra che sia fallita in seguito al Covid. Comunque l'album che ci siamo ascoltati è ufficialissimo, si chiama Gotham, perché è stato registrato nella città di Batman, New York City, esattamente all'Hammerstein Ballroom, scusate, il 9-10 settembre del 1998. Credo che non abbia bisogno di presentazioni il brano, comunque si chiama Ziggy Stardust. Sei giorni dopo la morte di David Bowie, Bruce Springsteen e la E Street Band erano in concerto a Pittsburgh alla Consol Energy Center e Bruce e gli altri naturalmente omaggiarono David Bowie interpretando questo brano che viene da Diamond's Dog ed è del 1974, il tutto registrato il 16 gennaio 2016. Il brano si chiama, ma ce lo dice lo stesso Bruce Springsteen. I'll take a moment and note the passing of our good friend David Bowie. David, I don't know if people know, but he supported our music way, way, way back in the very, very beginning. 1973, he rang me up and I visited him down in Philly while he was making the Young American record. And he covered some of my music, Hard to Be the Same City, growing up, and he was a big supporter of ours, particularly when I took the Greyhound bus down to Philadelphia. That's how early it was. But anyway, we're thinking of it. Oh, you. We really love you. Thank you. Thank you. Goodbye. Sempre agitatissimi questi Red Hot Chili Peppers, anche in questa reinterpretazione di Suffragette City, che è già un pezzo mosso di suo, il tutto da questa band che viene dalla città degli Angeli, Los Angeles, California naturalmente, ed è attiva dal 1982 con diversi chitarristi nel corso degli anni andati e tornati, insomma, e morti, fra parentesi. Hanno fatto due album dal vivo, del quale uno era disponibile in download gratuito, e più un sacco di singoli con brani dal vivo. Questo è uno di quelli, come sentite in sottofondo, la versione di punta, diciamo, la canzone titolare di questo singolo è Aeroplane. Il singolo uscì in due versioni diverse con diverse canzoni dal vivo. Questa era Suffragette City, appunto, registrata nel giugno del 1972. No, scusate, ho sbagliato, ho letto la riga dopo, ma non è niente. Viene pubblicata nel giugno del 72 su quella pietra miliare della musica rock che si chiama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Loro l'hanno registrata in tempi più recenti alla Hoy di Rotterdam in Olanda il 16 ottobre del 1995. Suffragette City. Siamo così arrivati alla conclusione, molto molto molto velocemente. L'ultima canzone è un brano che David Bowie ha dedicato a uno dei suoi eroi, Andy Warhol, il tutto interpretato da una band di San Diego nel quale militano due fratelli di origine italiana, si chiamano De Leo, e che hanno fatto un album dal vivo più alcuni singoli anche loro con canzoni dal vivo, tipo questo Vaseline. Anche questa è stata pubblicata in due versioni con canzoni dal vivo diverse, tutte però registrate all'MTV Unplugged, al Sonic Music Studios di New York City, il 17 novembre del 1993. Il brano che proviene da Hunky Dory si chiama Andy Warhol. Ci sarebbero ancora tantissime altre cose da ascoltare, covers di David Bowie, sarà per la prossima volta. Loro sono Stone Temple Pilot. Be a standing cinema. Dress my friends up just for show. See them as they really are. Put a people in my brain. Two new plans to have a go. Like to be a gallery. Put you all inside my show. Looks as real, hanging on the wall. Andy Warhol, silver screen, can't tear them apart at all. Andy walking, Andy time. Take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep. Set him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, he should have think of me and you. He'll think about painting, he'll think about you. What a boring thing to do. Looks as free, hanging on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks as free, hanging on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Jesus will hang him on the wall. And do a house of a screen and tear them apart at all. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte iniziata come al solito con la novità che vi propongo quest'oggi, l'ultima uscita discografica per David Bowie, ovviamente purtroppo postuma, si chiama Ready Set Go. Ready Steady Go era un'altra cosa, una trasmissione televisiva britannica, questo si chiama Ready Set Go. E il tutto è uscito per il Record Store Day del 2025, registrato a Riverside Studios di Londra l'8 settembre del 2003, in occasione della presentazione in tutto il mondo, perché la trasmissione televisiva fu trasmessa in tutto il mondo, dell'album Reality. Il brano che ci siamo ascoltati in particolare si chiama Cactus. I got so lost on the shore. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Ricordi Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Abbiamo ancora tantissime cose, sono sei decadi, perché il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade, per cui andiamo sparatissimi al 1968 insieme a una band che di lì a poco a Woodstock avrebbero avuto una consacrazione mondiale. Loro si chiamano tuttora 10 Years After, anche se l'unico membro originale è rimasto Eric Lee, il batterista. Il punto di forza, il frontman però della band, che viene da Nottingham, era Alvin Lee, chitarrista, detto anche la chitarra più veloce del West. Lui abbandonò la band nel 2003 per divergenze personali, presumo, perché dopo ne formò un'altra che invece di chiamarsi 10 Years After, cioè 10 anni prima, si chiamava 10 anni dopo, 10 Years Later. Undead è il primo album live di una serie abbastanza corposa, fu fatta appunto prima di Woodstock, non erano ancora così famosi, in Inghilterra erano fra le band di punta del rock blues di quella nazione, ma appunto non erano famosi a livello mondiale. L'album originale è uscito nel luglio del 1968 con 5 canzoni, però nel 2002 fu ripubblicato con 9 canzoni, pubblicato naturalmente in CD. Il tutto però registrato al Klux Klink di Londra il 14 maggio del 1968. Il Klux Klink era un locale storico degli anni 60 in quel di Londra, ci hanno suonato praticamente tutti i gruppi britannici emergenti. Il brano che vi faccio ascoltare è un classico, quello appunto che a Woodstock gli portò tanta fortuna. Woodstock durava più di 10 minuti, se ricordo bene, qui ne dura 6:24 e si chiama I'm Going Home, 10 Years After, dal 1968. Don't go, baby. Don't go, baby. Ultimo brano del concerto del 14 maggio 1968 in quel di Klux Klick di Londra, ultimo brano sempre, questa I'm Going Home, interpretata dai Ten Years After, che è il brano che gli ha portato tantissima fortuna. Undead, l'album che ci siamo ascoltati, ed è un mini classico nel suo genere, appunto da questa band che non era ancora esplosa completamente, lo fu appunto a Woodstock l'anno dopo. Non è partito niente, adesso faccio partire. No, a parte questo, approfitto così, vado un po' di fretta perché il tempo come sempre sta scemando e non smetterò mai di decantare le lodi di una band che si chiama Pavlov's Dog. Venivano da St. Louis, sono stati attivi come band dal 1972 al 1977 e poi nel 2005 David Shurkamp, il cantante, assemblò una band chiamandola Pavlov's Dog, ma in realtà della band originale c'era solo lui. I primi due album sono assolutamente splendidi, li consiglio caldamente a tutti, anche perché sono stati qualche anno fa ripubblicati con alcune canzoni dal vivo che non erano presenti nell'album, nei long playing. Il terzo album si chiama Has Anyone Here Seen Siegfried? Vale a dire, c'è qualcuno che ha visto Siegfried qui? Fu registrato nel 1977, ma non è mai stato pubblicato. È stato pubblicato insieme agli altri nel 2007, quindi ormai diversi anni fa, e con anche questo con canzoni dal vivo. Ci andiamo ad ascoltare una. Purtroppo la registrazione non è perfetta, un eufemismo, e il tutto è stato registrato al Ford Auditorium di Detroit, Michigan, il 14 maggio del 1976. La voce di David Shurkamp è assolutamente fenomenale e ripeto una volta, ancora una volta, Pavlov's Dog, i primi due album sono assolutamente indispensabili. Questo pezzo si chiama She Came Shining. Well, this is the title track of the new one. It's called She Came Shining. I used to see light in your eyes, but I don't see it anymore. And all these promises you made to me, well, I don't need them anymore. Come dicevo, la registrazione non è ottimale, ma sicuramente è un gran pezzo. Chic and Shining, l'ha detto anche David Schurkamp, è tutto registrato al Ford Auditorium a Detroit il 14 maggio del 1976. Ancora una volta vi consiglio caldamente almeno i primi due album, Pampered Manial e At the Sound of the Bell dei Pavlov's Dog, perché sono assolutamente fantastici. Gli anni 80 sono rappresentati da un personaggio che si è fatto le ossa e ha avuto successo con una band che si chiamava Husker Du dal 1979 al 1988. Lui si chiama Bob Mould, poi ha avuto una carriera solista che si barcamena, non è che sia splendida, ma sicuramente ha un buon pubblico, diciamo così, anche se non ha un successo trascendentale. Poison Ears è una raccolta dei suoi brani migliori, più alcuni brani dal vivo inediti che sono stati pubblicati nel luglio del 1994, la raccolta. I brani dal vivo invece sono stati registrati al Cabaret Metro di Chicago il 14 maggio 1980. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Compositions for the Young and Old. Lui invece si chiama Bob Mould dal 1989. But baby, Vengono da Tempe, Arizona, sono attivi dal 1998 ed è quella che si chiama tipica bar band americana. Si chiamano Roger Klein and the Peacemakers, tutte le sere in posti anche a volte non propriamente edificanti, tutte le sere suonano con grande successo per i locali, soprattutto dopo la terza o quarta birra, ma ogni tanto fanno anche qualche album, qualche disco, solitamente live perché costa meno, non c'è lo studio da pagare, e uno di questi, di Roger Klein and the Peacemakers, si chiama Reel to Reel, anzi è il primo addirittura per di una serie abbastanza corposa. È stato registrato a casa loro a Tempe in Arizona al Green Room il 14 maggio del 1999. Il pezzo che vi ho proposto si chiama Green and Dumb, una band che fa sempre piacere ascoltare, niente di trascendentale come avete sentito, però è sicuramente piacevole, e credo che vederli dal vivo in un bar fra una birra e l'altra sia veramente piacevole. E questa è la band con il nome più incredibile che mi sia dato modo di ascoltare, di leggere per meglio dire. Si chiamano And You Will Know Us by the Trail of Dead, con tre puntini davanti, tu ci conoscerai attraverso il cammino dei morti, una cosa del genere. Band molto particolare, molto interessante, come band di Austin, Texas, sono stati attivi dal 1994 al 2023, ma non si sono sciolti, sono in hiatus, cioè sono dormienti, diciamo così, per dire. L'album che ci andiamo ad ascoltare fa parte della serie Live at Rock Palace, la trasmissione televisiva tedesca benemerita, che è stata registrata alla Musicale di Colonia, in Germania appunto, il 14 maggio 2009. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Will You Smile Again, sorriderai di nuovo. Loro sono a New Will Know Us by the Trail of Dead dal 2009. Certainty. Ottima band, questa degli And You Will Know Us by the Trail of Dead. Loro hanno registrato questa trasmissione di Rock Palace alla Musicale di Colonia il 14 maggio del 2009. Il brano si chiama tuttora Will You Smile Again. Prima di passare al brano conclusivo, vi ricordo solamente che vi siete ascoltati un paio di ore di musica live, registrata dal vivo per meglio dire, dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. E Città Fujiko Live Club, la trasmissione che sta concludendosi e che vi dà appuntamento con sempre musica registrata dal vivo mercoledì prossimo, stessa ora, stessa frequenza, stesse modalità d'uso. A concludere Ricordi Today di oggi e Città Fujiko Live Club contemporaneamente, arriva una mega band, forse un po' troppo mega, si chiama U2 e la loro fan club si chiama U2.com. Ogni anno a chi si iscrive fa un regalo, è pagato, perché poi l'iscrizione costa sui $40 se ricordo bene. Solitamente c'è un po' di tutto, si va da libri a fotografie, album fotografici a dischi in studio o dischi dal vivo, che sono quelli che interessano questa trasmissione. Questo Songs of Innocence and Experience è stato dato in omaggio a coloro che si iscrivevano al club nel 2019. Comprende diverse registrazioni effettuate in diverse location dagli U2. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che vi propongo e che conclude Città Fujiko Live Club di oggi, si chiama The Troubles. È stato registrato alla Rogers Arena di Vancouver in Canada il 14 maggio 2015. Questi sono gli U2. Ciao a tutti da Nevio. Trouble.